Linee d'ombra di Matteo Caccia. Da quando tutto questo è cominciato, da quando questa emergenza, questa enorme linea d'ombra che è questo Covid-19, che è questo rimanere a casa, è cominciato, noi vi abbiamo chiesto di raccontarci come è cambiata la vostra vita, dei veri e propri diari, cioè dei racconti immediati su quello che fate a casa, su come la state passando, su quello che siete obbligati a fare o a non fare. E le storie che arrivano ogni settimana sono tantissime, grazie per continuare a mandarle a lineedombra@radio24.it. Questa settimana ce ne sono 5 che sono tutti molto diversi da loro. La prima arriva dall'Olanda, da un'ascoltatrice che si ritrova dalla sorella, va a trovare la sorella in tempi non sospetti perché ha avuto un bambino e vuole andare a trovare la sorella e il nipote, e poi si ritrova a rimanere lì. Si parla di Olanda e di tulipani. Rotterdam, 9 aprile 2020. Ho comprato 40 tulipani, uno per ogni giorno che ho passato qui, nel loro paese. 40, quarantena, quaresima. Mentre mi dava consigli su come trattarli bene, la fiorista li stringeva fra le braccia e sembrava non volerli lasciare andare. Poi li ha appoggiati con cura sul bancone e così ho portato a casa un mazzo di fiori. Non compro mai fiori. Invece oggi mi sono fatto un mega mazzo di tulipani. Chissà da dove viene l'espressione farsi il mazzo per indicare la fatica e il duro lavoro. Perché nelle ultime settimane un mega mazzo ce lo stiamo facendo tutti, ogni giorno. Anche chi paradossalmente è costretto a fare meno sforzi possibile. Non lavorare, non uscire, non dover avere per forza un'opinione su tutto. Ma il cambiamento è all'ordine del giorno. Se ti svegli una mattina e devi vivere la vita di qualcun altro, senza essere attrezzato, lo fai. Nella mia vita temporanea, a quanto pare, sono una persona che ha sempre dei fiori freschi in casa. Nella mia nuova vita non lo so ancora, ma sento che alcuni strascichi di limbo voglio portarmeli dietro in futuro. Io più che una quarantena sto vivendo un esilio. A fine febbraio da Brescia mi sono spostata a Rotterdam per stare un po' con mia sorella e la sua famiglia e non sono ancora riuscita a rientrare. Nel giro di una settimana sono passata dal mio appartamento da single e home office da tempi non sospetti per un lavoro da freelance con orari creativi e tutti miei a una situazione di co-housing con una coppia sposata e il loro bimbo di un anno che, con l'asilo nido chiuso, ovviamente mi spupazzo io. Quando la giornata è bella, carico mio nipote sul passeggino e mentre lui si fa una pennica io mi metto in pari con i vostri podcast perché qui si può ancora circolare liberamente e con le dovute precauzioni io ne approfitto. La preoccupazione per i miei genitori e lo sconforto per le tante famiglie che hanno perso qualcuno fanno da sottofondo alle mie giornate, ma a parte questo ho accolto lo stop obbligato con una specie di sollievo. Sto rimodellando il tempo e lo sto riempiendo come voglio io. Faccio parte di quelle persone che avevano gli strumenti per affrontare una diminuzione del carico di lavoro e un cambio radicale delle loro abitudini. Detto questo, non vedo l'ora di tornare alla vita di prima, anche se so che non sarà più quella di prima. Nothing please me more than you. Oh, let me go home. Home is wherever I'm with you. Oh, let me go home. Home is wherever I'm with you. La seconda storia invece arriva da una di quelle persone che è costretta ad andare a lavorare ed è costretta ad andare a lavorare in uno di quei posti di cui si è parlato moltissimo, perché le carceri sono uno di quei luoghi in cui le persone evidentemente non possono mantenere un distanziamento sociale, non possono mantenere un metro e mezzo, due, insomma non si è mai ben capito quanti sono, un metro, facciamo un metro di distanza, e sono costrette a continuare a convivere e ci sono persone come il protagonista di questa storia che ci racconta invece lui come fa avanti e indietro e come fa a rimanere a casa. Veramente non posso chiamarla proprio quarantena. il mio è un lavoro non differibile. E anche se normalmente molti dicono che non serviamo a nulla, ora che le carceri si sono rivelate una polveriera, noi educatori dobbiamo esserci, parlare con i detenuti, scrivere a manetta relazioni per le misure alternative che tutti stanno chiedendo. Quindi, tranne il venerdì di lavoro agile da casa, tutti i giorni vado in galera, amando le strade sgombre e la rotonda di Piazza Baldissera, che si percorre senza nemmeno rallentare, quando di norma è una guerra. Quando esco passo dall'Ipercoop, non spesso, ma più di una volta a settimana, e poi vado dai genitori. Lavoro, Ipercoop, genitori, poi a casa, come sempre. Non è cambiata molto la mia vita. Manca l'appuntamento mensile con Rossella, pizza, cinema, chiacchiere. Per quasi tutto il resto è il sollievo dell'alibi. Sono in quarantena, non possiamo vederci. Che peccato. Arrivo a casa, ho assolto tutti i miei doveri. È sera, ho da mangiare, ho i gatti, chi sta meglio di me? Ah, mettiamo in chiaro. Lo so che questa pandemia è una tragedia, lo so. So che ci sono tanti morti, ci sono morti in solitudine, morti senza fiato, ci sono i parenti impotenti, ci sono persone che si mettono a rischio, tutto il personale sanitario. Ci sono persone che per la chiusura totale non hanno più un lavoro o perdono denaro per non poter esercitare la loro attività. Però, devo dirlo, io amo questo silenzio. L'hanno definito innaturale. Mi spiace, ma è proprio il contrario, è naturalissimo. Si sente il vento, si sentono gli uccelli. Si è fatto raro il passaggio delle auto in via Botticelli, che prima era un rombo sordo continuo. Più quiete le scale che confinano con la mia cucina, dove prima galoppavano i condomini esausti. Ormai sporadico lo sbattere del cancello d'ingresso. Più nessuna combricola notturna a fumare e ridacchiare sotto la mia finestra al piano rialzato. Lo so che questo mi fa apparire una vecchia zitella acida. Zitella in effetti sono. Giovane a modo mio. Acida a volte. Ma sebbene anche io abbia dovuto rinunciare a qualcosa, il cinema, le passeggiate al parco, la montagna, la piscina, mi sento quasi elettrizzata per le possibilità che questa reclusione obbligata mi apre e che le giornate piene di impegni non rendevano nemmeno pensabili. Cose come leggere, prima di tutto, i giornali della settimana, quelli che i genitori mi tengono da parte, i libri che attendono da anni. Poco originalmente ho cominciato La peste di Camus. E poi seguire su YouTube le lezioni sul Medioevo di Alessandro Barbero, o gli interventi di Dario Bressanini sulla chimica degli alimenti, o i podcast delle trasmissioni che vanno in onda mentre lavoro, come Linee d'Ombra. E poi fare esperimenti in cucina, il pane arabo, le torte, curarmi di più di casa mia. Ho centinaia di documenti da riordinare, bollette, ricevute. Quante volte, pressata dalle urgenze e dalle aspettative altrui, ho pensato: fermate il mondo, voglio scendere. Ecco, la quarantena somiglia moltissimo alla pausa che ho tante volte invocato. Per ora lo sto ancora assaporando, non ho ancora realmente messo in pratica i lavori straordinari che ho in mente, ma mi sento già molto più tranquilla e so che è principalmente per la diminuzione del rumore. Questo mi dice molto sulla direzione in cui devo andare, cioè trovare una casa in un posto molto più tranquillo di questo. La considero un regalo, questa quarantena, e non vi sembra una bestemmia se dico che finirà troppo presto. Il prossimo diario invece è davvero struggente, perché è il diario di un ragazzo a cui capita una cosa bellissima ma nel momento sbagliato. Gli capita di innamorarsi

che non dovrei sentirla. Sento che è un prolungare la sofferenza. Sentirla vuol dire rimanere con la testa e il cuore lì. E ho l'egoistica paura che un giorno sarà lei a dire basta, a non dirmi più che mi ama, e io dovrò accettarlo. Time takes care of the wound, so I can believe. You had so much to give, you thought I couldn't see. Gifts for boot heels to crush, promises deceived. I had to send it away to bring us back again. Your eyes and body bright in silent waters deep. Your precious daughter in the other room asleep. A kiss goodnight from every stranger that I meet. Il prossimo diario della quarantena invece è un diario che non parla di quarantena, semplicemente racconta una delle cose che questa quarantena ci permette di fare, e cioè di osservare le cose. E quindi l'autrice del prossimo diario ci racconta come la vita di una tortorella che si trova davanti alla finestra di casa sua, sull'albero del suo giardino. Nel giardino antistante della mia casetta ci sono due alberi importanti. Una magnolia, della specie sempreverde, che fa fiori pochi ma profumatissimi, e un cedro. Abbiamo notato che sui rami più alti passeri e tortore nidificano. Ce ne accorgiamo quando il giardiniere viene a potare gli alberi, un anno sì e un anno no in autunno. Trova sempre un nido vuoto e ce lo porge. Noi consideriamo di buon auspicio la presenza di un nido sul nostro albero. È la vita che si rinnova ogni primavera. Ci sono anche due gazze che vengono a visitare il giardino. Le riconosci subito, sono nere con la coda lunga e una lunga striscia bianca. Probabilmente sono due maschi, bellissimi esemplari di gazza ladra. Queste non nidificano qui da noi, ma puoi vederle saltare da un ramo all'altro degli alberi. Una settimana fa abbiamo notato che una coppia di tortorelle aveva nidificato sulla parte alta della magnolia. Vedevi il maschio fare la spola avanti e indietro mentre la femmina era intenta alla cova. Quest'ultima la potevi vedere ogni tanto beccare i pochi sassolini rimasti intorno al tronco. Una mattina abbiamo sentito un trambusto notevole in cima alla magnolia. Non capivo che cosa stesse accadendo. Subito però ho individuato le due gazze che se la prendevano con la tortorella. Lei se ne volava frenetica e disperata da un ramo all'altro, si muoveva tutto intorno, disorientata e disperata, come se cercasse qualcosa. Poi le due gazze se ne erano andate. Il compagno sembrava scomparso. Per due giorni la povera tortorella si comportò allo stesso modo, zampettava desolata ai piedi dell'albero, beccava qualcosa dal terreno, era depressa, era triste. E ho capito subito, le gazze le avevano sottratto le uova. Mi faceva pena col suo tubare fievole e ripetitivo. Le ho persino portato del riso cotto, altri semini non ne avevo. Povera tortorella, abbandonata dal compagno, privata delle sue uova, se ne stava malinconica e si muoveva a piccoli saltelli. Io la guardavo e mi ero ripromessa per il mattino seguente di acquistare una casetta per uccellini. Non so come avrei potuto farlo, visto che i vivai sono ancora chiusi. La mattina seguente ho individuato subito le gazze. Stavolta erano tre, volteggiavano sulla magnolia, forse in cerca di altre uova. Tre maschi in cerca di cibo. Certo, questa volta non l'hanno trovato. Brutta razza, le gazze ladre. Ho cercato la tortorella, niente, neanche l'ombra. Chissà che fine ha fatto, se ha trovato un nuovo compagno, se si è riavuta. E stamattina mi è arrivata la risposta. Due tortorelle si sono posate sul cespuglio di fronte al garage. Una era lei, era la mia tortorella, ne sono sicura. Mi sembrava che volesse dire: per me questo giardino non è più sicuro, sono andata altrove, ma stai tranquilla, è tutto ok. E io, che da qualche giorno odiavo le gazze, mi sono riappacificata con loro. È la legge della natura e della sopravvivenza. Ce l'ha fatta la mia tortorella. Ora riesco a guardare con occhio benevolo anche le gazze. I am resilient, I trust the movement, I negate the chaos, uplift the negative. I'll show up at the table again and again and again. I'll close my mouth and learn to listen. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.